9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 16 febbraio. Devo dirvi che ho deciso di occuparci di acqua oggi, anche perché c'è un problema il mio di apparato idraulico ai reni, come avrete capito non è che stia proprio eccelsamente bene. Ma detto tutto questo, no, la questione è un'altra. Io rimasi molto incuriosito a fine dell'anno scorso, qualche settimana fa, quindi quando in Parlamento si sviluppò un dibattito sulla legge Ronchi, la conversione di un decreto che tornava su questo punto della gestione dell'acqua italiana, sottoponendo, lo vedremo poi, i gestori che restano pubblici nel nostro paese a stragrande maggioranza a un nuovo scadenzamento temporale per la diminuzione della quota di capitale pubblico nelle società. E rimasi colpitissimo dall'esplodere in pochi giorni di un dibattito incredibile, in cui sembrava che il problema del nostro paese nell'acqua fosse quello di tagliare le mani ai privati che se ne erano impadroniti e ci facevano pacchi di soldi sulla vostra salute, sul vostro portafoglio di cittadini comuni, e che quindi il problema fosse quello, per così dire, di difendere questo bene pubblico minacciato dalla carica di queste specie di topi nel formaggio, che erano naturalmente gli avidi e corrotti privati. I toni del dibattito erano un pochino questi, per capirci. Uso apposta per iniziare questa trasmissione padre Alex Zanotelli, voce della Chiesa italiana, è un comboniano, lo sapete, impegnato per il mondo equo solidale, e così parlava dell'acqua nel nostro paese. Padre Alex Zanotelli. Maledetti voi ricchi, io ho detto maledetti voi che avete votato per la privatizzazione dell'acqua, perché un linguaggio così duro? Perché toccare l'acqua vuol dire toccare la vita, cioè l'acqua è vita, la vita nasce dall'acqua, l'acqua è sacra. Vuol dire toccare l'uomo. L'uomo all'80% è acqua. Potremmo definire l'uomo acqua che cammina e che pensa. Talmente è essenziale ed importante l'acqua. Tentare di privatizzare l'acqua, io direi, è proprio bestemmia in questo senso, perché vuol dire toccare il cuore della vita. Ecco, questi sono i toni, come vedete, non troppo equilibrati, almeno questo è il mio giudizio, con cui padre Alex Zanotelli lanciava gli obiettivi di quella che sarà poi una grande manifestazione nazionale che ci sarà di qui a meno di un mese a Roma, di mobilitazione, appunto, giù le mani dall'acqua. Allora, perché parlo di questo tema, torno a parlarne oggi? Perché poi non mi andrà di farne, come non mi è andato di farlo nei giorni della legge Ronchi, per evitare di sembrare che uno parli di politica. A me piace parlare di problemi, non mi piacerà quindi farlo nei giorni della manifestazione, in cui ci saranno le regionali vicine, quindi tutto si ridurrà a chi sta con chi invece che al merito della questione. Ma sta uscendo in questi giorni un libro di cui parleremo oggi, traremo spunto, anzi il suo autore è con noi, lo saluto, si chiama Giuseppe Marino, è un collega del giornale. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Giannino. Ecco, il libro di cui Giuseppe Marino è autore, che esce in questi giorni, si chiama La casta dell'acqua, come la privatizzazione sta assetando l'Italia, e Nuovi Mondi l'editore. E io devo dire che questo libro mi ha un po' colpito e ho deciso di usare proprio, di chiedere a Giuseppe Marino di metterci a disposizione il suo tempo per usare il suo libro, perché il suo libro mi sembra, devo dirlo, una cosa utilissima da leggere, perché è un quadro sintetico di come sono andate le cose nel settore dell'acqua italiana dalla legge Galli, cioè da 15 anni fa a oggi, è pieno di numeri interessanti, quindi vi potete documentare con una ricchissima documentazione anche di fonte diversa. Ci sono le cifre ufficiali del COVIRI, cioè del Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche Italiane, che fino a poco fa, visto che poi è sostituito adesso, era l'autorità, non autorità di settore, nel senso che non ha esercitato praticamente nessun potere, ma comunque vedremo anche nel corso della trasmissione quali sono le questioni su cui si incardina la mancata soluzione dei problemi della gestione dell'acqua nel nostro paese. Però la mia critica è che anche questo libro, devo dirglielo a Giuseppe, mi sembra scritto strizzando l'occhiolino, perché come la privatizzazione sta assetando l'Italia, io vado a vedere, in sintesi, adesso do due numeri io, poi lascio la parola a Giuseppe Marino e agli altri ospiti. Insomma, io la vedo un po' così. 15 anni fa avevamo un paese di Arlecchino con 13.000 gestori, 5.500 aziende. C'è la legge Galli del 93, che tenta un principio illuministico, quello di introdurre questo ambiente territoriale ottimale, nel quale far convergere le gestioni in maniera che siano più razionali tra più comuni, quindi mettendo insieme reti più ampie per consentire più economicità del servizio e quindi incentivare gli investimenti, che non è la cosa che storicamente mancava nel nostro paese. Naturalmente in 15 anni ci vogliono più di 10 anni per realizzarla, per arrivare al poco più di 100 ATO in cui si divide l'Italia. Cosa fanno i comuni e le regioni? Naturalmente le regioni tendono a farle coincidere con le province, invece che essere organi snelli tecnici diventano organismi politici con consigli, gettoni di presenza, eccetera eccetera. Dopodiché andiamo a vedere che cosa avviene in questo poco più di 100 ATO, che sono i privati ad averci messo le mani dentro. A me non mi pare proprio, perché fino a prova contraria innanzitutto su oltre questi 100 ATO neanche due terzi hanno affidato le gestioni secondo la logica che doveva essere propria della legge, cioè la gara, mentre in quasi due terzi dei casi l'acqua è stata affidata sempre in house, senza gara, a soggetti pubblici. Questa è la realtà del nostro paese. I gestori, che sono passati da migliaia, come erano prima della legge Galli, a poco più di 100 attualmente, di questi poco più di 100, 7 sono privati, 7, sottolineo 7, perché 58 sono integralmente pubblici, 31 misti, dove comanda il pubblico però, cioè c'è il privato che viene accusato di essere preminente ma comanda il pubblico. Faccio alcuni dati dell'inefficienza italiana in cui questi 15 anni si configurano, quella più grave secondo me. C'è una questione molto seria, e qui il libro è veramente strepitoso, l'insufficienza degli investimenti rispetto alle promesse, cioè chi si è beccato le concessioni, pubblico, quasi sempre pubblico, sottolineo, 5 volte lo sottolineo, perché sennò non ci intendiamo su questo rischio della privatizzazione che io non vedo, visto che la responsabilità è pubblica, nella media ha fatto meno della metà degli investimenti che aveva promesso all'atto dell'ottenimento della concessione. E qui, come sempre, troveremo che la geografia italiana è la geografia che vediamo ogni giorno quando tocchiamo i problemi. Ieri abbiamo visto quella delle assicurazioni, ma è sempre la stessa storia, nel senso che l'80% degli investimenti, almeno l'80% degli investimenti promessi, sono stati fatti in regioni come la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Lombardia. Poi man mano si scende la percentuale. In Abruzzo il 50%, in Basilicata il 25%, in Puglia il 16%, in Sicilia addirittura il 6%, in Sicilia, dove il presidente dell'azienda regionale per l'acqua e i rifiuti era il manager, come viene ricordato nel libro, che guadagnava di più in tutta la regione Sicilia con 546.000 euro l'anno, 6% di investimento rispetto ai promessi. Ma questa è una graduatoria dell'inefficienza tra nord e sud, come si vede, non è una graduatoria della rapina dei privati che si pigliano i soldi, sono solo il 7%, e poi non fanno gli investimenti. È il pubblico che è preminente nella gestione dell'acqua, che non fa gli investimenti. Altro problema: quanta acqua si perde nel nostro paese? Anche qua se ne perde il 34% più o meno di quello che va nei tubi, ma anche qui è una geografia dell'inefficienza pubblica italiana, perché in Puglia se ne perde il 40%, in Abruzzo il 51%, in Molise il 56%, in Lombardia il 15%. Allora, che nella sintesi conclusiva che faccio io, andremo poi ai problemi della legge Ronchi, perché la reazione di Zanotelli e degli altri è contro il fatto che c'è un decreto che tenta di reintrodurre il principio della gara nell'affidamento delle gestioni. E gara significa che vi partecipano pubblici e privati, a maggioranza pubblici, non significa che la vincono i privati la gara. E tenta poi di dire alle grandi aziende che gestiscono l'acqua e che sono quotate in borsa, cioè Acea, Era, Enia, eccetera eccetera, che si sono conglobate in questi giorni. Proprio in questi giorni stiamo andando a un'altra ondata di unioni, per esempio quella tra Enia, che è la somma di tra Iride, voglio dire, ed Enia, quindi facendo un blocco che va a Piemonte, Liguria ed Emilia, e la legge Ronchi tenta di dire a queste grandi quotate a controllo pubblico: dovete diminuire la quota del pubblico, dovete farla scendere al sotto il 40% nel 2013 e sotto il 30% nel 2015, con l'idea che con più capitale privato sia meno possibile per queste grandi società pubbliche, ripeto, avere bassa redditività e avere fortissime spese di costo per piante organiche, come fino a questo momento in molte di loro è state. Allora, in sintesi, io dico che i grandi problemi del nostro paese mi sembrano tutti in coloro che non hanno attuato la legge, perché hanno messo i partiti prima degli obiettivi di efficienza degli ATO, poi hanno fatto degli ATO degli organi non tecnici ma politici, hanno impedito che ci fosse un'autorità vera di controllo, cioè il comitato di il Coviri, sono rimasti pubblici nella gestione, pubblici nel controllo del capitale, pubblici nella logica di inefficienza da nord a sud. A me sembra questo il problema dell'acqua nel nostro paese. Però, naturalmente, può essere che la mia sia una posizione da mullah, come dice Giuseppe Marino, non citando me, ma dicendo gli estremisti della privatizzazione sono i mullah. Allora, Giuseppe, innanzitutto adesso parliamo un pochino del tuo libro, perché nel tuo libro ci sono anche vicende concrete come quella di Aprilia, che in effetti fanno vedere che poi l'ingresso dei privati ha creato qualche problema. Ma in che cosa, secondo te, dire che il problema non è dei privati, che mi pare che ci siano molto pochi, è sbagliato? Tu dici è proprio sbagliato fare la questione tra privatizzatori e pubblicizzatori? Sì, esatto, cioè, è inutile dividersi almeno in questa fase tra sacerdoti del privato che risolve tutto e mistici del pubblico che invece è l'unica sicurezza, perché la questione è a monte, cioè se non abbiamo stabilito le regole, cioè i parametri con cui si può dire che una gestione sia buona o cattiva, no? Infatti nel libro mi sono dovuto basare così su cose intuitive come appunto gli investimenti. Se non abbiamo fissato, non abbiamo creato una vera autorità di controllo, perché come hai detto tu, gli ATO sono dei controllori politici, non che questo politico sia di per sé, no, un termine negativo. Il problema è che non puoi valutare l'acqua come se fosse di destra o di sinistra. Cosa è successo nei casi peggiori, che sono soprattutto quelli nelle società miste, secondo me, almeno questo è quello che è emerso dalla mia inchiesta, cioè laddove si è creato una strana commistione tra pubblico e privato, no? Come se vuoi spiegherò più avanti, è successo che queste società prendono delle decisioni, l'ATO controlla, all'interno dei CDA delle società ci sono degli esponenti politici che quasi sempre sono esponenti di una parte, no? Che è quella maggioritaria in una certa zona, poi l'ATO va a votare e siccome è omogeneo politicamente ai consiglieri di amministrazione sostanzialmente approva tutto, passa tutto. E il caso di Aprilia appunto è emblematico, il presidente della società, abbiamo un amministratore delegato che è un manager che fa riferimento, diciamo, al socio privato, e il presidente della società che è un senatore. E chiaramente, essendo poi tra l'altro un esponente importante di una parte politica di quella zona, quando si va a votare nel lato c'è un blocco politico che vota dalla sua parte, cioè vota sostanzialmente decisioni favorevoli a quelle prese dal CDA dell'azienda. Infatti si hanno pochi o nulli casi in tutta Italia di ATO che abbiano fortemente contestato poi la gestione. C'è questa omogeneità. Posso farti un'osservazione proprio su questa cosa di Aprilia? Tra l'altro invito naturalmente tutti gli ascoltatori che sono toccati da quella vicenda a chiamarci. È un po' il refrain di tutto il libro e io lì sono molto critico. Ad Aprilia quello che si critica è il fatto che arriva una dei grandi protagonisti mondiali dell'acqua, cioè una grande multinazionale francese, entra in capitale, prende la gestione, vince la gara, arriva l'affidamento, aumentano le tariffe. Il problema che io vedo nella protesta degli italiani è che loro vogliono continuare a pagare l'acqua troppo poco, perché le tariffe sono troppo basse in Italia rispetto alla media europea. Si dice: ah, che cacchio di ragionamento è questo? Il problema è che le tariffe devono aumentare molto poco secondo l'inflazione. No, le tariffe devono aumentare secondo quello che il servizio, per essere economico, per considerare gli investimenti, la mia opinione è questa. Dico questo perché nel libro, Giuseppe, scusami, tu fai il refrain delle proteste che scoppiano ad aprile, c'è questa nuova gestione del 2004, inizia di fronte a richieste di adeguamento troppo elevate della bolletta giudicata dai cittadini e soprattutto a criteri di bollettazione effettivamente molto discutibili e che andavano chiariti, perché improvvisamente il primo anno arriva una media per tutti come se fossero famiglie di 4, quando invece le famiglie non sono di 4, bisogna fare i consumi secondo quello che uno consuma davvero. Ma in definitiva ad aprile si crea un caso clou, perché migliaia di cittadini iniziano a non pagare alla nuova azienda, continuano a pagare al vecchio comune dicendo pubblico, pubblico, io il privato non lo voglio. Si arriva a un proliferare di sentenze, chi dà ragione a uno, chi dà ragione a un altro, come sempre la magistratura poi non è univoca, e si arriva però fino al punto in cui mi sembra che si inneggi, questi comitati di aprile inneggiano ad arresti che poi vengono fatti ad amministratori delegati precedenti, a quelli in corso, a politici eccetera eccetera, di cui poi il tribunale riesame annulla lo stesso presupposto delle dei passi del PM, per arrivare a che cosa? Cioè fare di questa storia di aprile una specie di simbolo della lotta per l'acqua italiana significa dire alla gente: voi difendete il principio che non vi devono chiedere di più, perché deve essere pubblica l'acqua e non vi si deve chiedere un euro. Io a questo, perdonami, che questa sia civiltà, io non ci credo. Giuseppe, in cosa sbaglio? No, sono d'accordo, anche io non penso che il problema sia di inneggiare al pubblico. Tra l'altro, in questi giorni del libro, come puoi immaginare, se ne sta discutendo anche proprio ad aprile, visto che racconta questa storia, e allo stesso modo vengo contestato anche da loro, perché io non inneggio al pubblico nel libro. È vero che racconto la storia di aprile come, diciamo, simbolo, ma simbolo anche nel senso che conoscendo la realtà di questo paese, dove una realtà, diciamo, un tessuto sociale abbastanza scollato, dove non è che c'è molto impegno, cioè il fatto che comunque si sia riusciti a coagulare 6.500 famiglie per fare una protesta, che tutto sommato comunque è pacifica, no? Cioè, a me sembrava una cosa da raccontare, poi per avere una storia parametro. Detto questo, una cosa bisogna aggiungere, cioè la gente ha ragione di protestare, non solo perché le tariffe sono molto aumentate, perché come giustamente hai detto tu, non è che non devono aumentare per principio, no? Cioè non si può chiedere questo, però bisogna appunto parametrarle. E se andiamo a guardare che cosa è successo poi nella qualità del servizio, purtroppo hanno ragione, cioè gli investimenti non ci sono. Addirittura c'è stato il caso della depurazione, che proprio ad aprile, sono d'accordo con te che io stesso ho scritto, se tu hai visto, insomma, quegli arresti che sono stati fatti, mi sono sembrati avventurosi, no, quantomeno. Ma no, mi sono sembrati di solito PM che di fronte al fatto che c'era gente che protestava, adesso mo li metto tutti in galera. Certo, per fortuna certo, il tribunale dell'esame ha detto su che basi. Ma lo dico, io di solito non do torto alla magistratura per pregiudizio. Lì carte alla mano, ecco, è una cosa. Sì, si è chiusa nel nulla, ovviamente questo va sottolineato. Però allo stesso tempo, per esempio, c'è stato il caso della depurazione inesistente, cioè, e questo poi si è ripercorso su tutta l'Italia. Anche cioè, lì, si faceva pagare la depurazione. Allora, la questione è questa: siccome la legge Galli dice ciclo integrale dell'acqua, quindi dalla fino al trattamento finale dell'acqua, fino alla depurazione, la questione era: chi ha vinto le gare dove non c'era un depuratore può naturalmente non deve, ma può far pagare all'utente dove ha vinto la gara qualche cosa in più, anche se il depuratore non c'è ancora, per sostenere l'investimento per la realizzazione del depuratore? Questa è la questione che viene trattata con esempi concreti anche nel libro, con esempi concreti che significano anche giudiziari naturalmente, perché ci sono state impugnative. In questo caso, Giuseppe, vogliamo difendere il fatto che come si fa un depuratore se non ci sono le risorse e a gestire e qualcuno che non ha i soldi pubblici e quindi deve trovarle sul mercato? Però il caso di Aprilia, il depuratore c'era, non funzionava e anzi inquinava le acque. Cioè, lì addirittura in questo paradosso. Se no, in generale è giusto, cioè se bisogna fare il depuratore, però appunto bisogna vedere se poi gli investimenti per fare il depuratore vengono deliberati, vengono avviati, vengono fatti. Qua invece le cifre messe in bolletta sono previste un po' dappertutto, sia che il depuratore stia arrivando, sia previsto, sia programmato oppure no. Cioè. Allora, iniziamo ad aumentare un po' lo spettro dopo questa ampia parte sul libro. Naturalmente Giuseppe Panino resta con noi, può intervenire quando vuole, con i tre ospiti con i quali andremo avanti nella seconda parte della trasmissione. Abbiamo con noi collegato Marco Bersani, che è del Forum Italiano Movimento per l'Acqua, quindi chiaramente a difesa dell'acqua pubblica. Buongiorno Bersani. Buongiorno a voi, chi ci ascolta. Carlo Stagnaro, che è direttore dell'Energia e Ambiente dell'Istituto Bruno Leoni, e quindi uno che difende i privati, convinto che il mercato sia la cosa migliore per dare la risposta. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. E Mauro Dascenzi, vicepresidente di Federutility, che quindi rappresenta le aziende che gestiscono. Buongiorno Dascenzi. Buongiorno a lei. Ecco, dopo la pubblicità a voi tre la parola. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando dell'acqua nel nostro paese, come viene gestita, se il problema sia il rischio della sua privatizzazione o la responsabilità del pubblico. La maggioranza degli sms ricevuti non ha dubbi, sono io che ho torto, c'è chi mi invita a imparare dalla trasmissione presa diretta, dove si dimostra inequivocabilmente, questo è l'avverbio, che la privatizzazione aumenta il prezzo e peggiora la gestione. Mi chiedo dove, però, visto che abbiamo solo il 7% di gestori. Chi mi invita a riflettere sulle parole di Zanotelli dicendo che se io diventassi presidente del Consiglio non c'è rischio, non vi preoccupate, l'Italia sarebbe un deserto nucleare in mano al mercato, eccetera eccetera eccetera. Questa, come immaginavo, è la reazione quando si prendono toni di questo tipo, però naturalmente può essere che io abbia torto e che non sappia vedere come la responsabilità di chi al 93% gestisce il sistema, cioè il pubblico, siano preminenti in ciò che non funziona rispetto a quelle del 7%, cioè il privato, che sarebbe invece il demonio in agguato per estorcervi naturalmente di servizi in cambio di elevate tariffe. I numeri a me dicono questo, ma può essere che io sbagli tutto. Allora, secondo Marco Bersani, e questo rischio di privatizzazione in concreto in che cosa consiste e che rischi può portare davvero? Beh, intanto diciamo che le gestioni private non è vero che sono sette, perché le società miste hanno al loro interno privati e tutti sanno che a poco in un servizio come quello dell'acqua la proprietà formale conta relativamente, ma controlla veramente chi gestisce, tanto è vero che nelle più grosse società, le multi-utility, sono collocate in borsa, ci sono le grandi multinazionali francesi, Suez a Roma, Veolia per quanto riguarda Torino, Genova e la stessa Aprilia, ci sono costruttori come Caltagirone, ci sono fondi finanziari, cioè soggetti che sono poco interessati al servizio totale e soprattutto alla sua remunerazione. Tutto questo comporta che almeno il 50% della popolazione, perché poi gli atto vanno distinti anche per popolazione, certo, il 50% della popolazione ha gestioni, diciamo, smaccatamente privatistiche. Il resto noi i misti sono 31 su 106 gestori, lo dico per chi ci ascolta. Sì, ma come popolazione metà, metà, perfetto, certo. Il resto, che sono SPA totale capitale pubblico, sono comunque forme di tipo privatistico dal punto di vista del codice civile. E allora, se anche è vero che il capitale pubblico, il modo di gestire il servizio sarà orientato, ed è orientato nei fatti, alla massima redditività, cioè non a considerare l'acqua un servizio pubblico ma un servizio di tipo remunerativo. Alcuni dati dimostrano queste cose. Negli ultimi 10 anni le tariffe sono aumentate del 61% a fronte di un'inflazione del 22%. Ora, qui, ma quanto erano rispetto alla media europea? Non ho capito. A quanto erano rispetto alla media europea? No, rispetto alla media europea sono basse. Ah, però ecco. Anche i salari dei cittadini italiani rispetto alla media europea sono bassi. Quindi... Ma se mancano gli investimenti, chi li paga? No, però mi faccia argomentare la sua è molto chiara. Ma io le chiedo solo una cosa. Adesso glielo dico. Ecco. Allora, gli investimenti. Nel decennio precedente alla legge Galli, 1986-1995, quando c'erano le vituperate municipalizzate, gli investimenti in questo paese erano pari a 2 miliardi di euro l'anno. Nel decennio successivo, 1996, quindi quando la legge Galli comincia a entrare a regime, perché è del 94, fino al 2005, cioè quando tutte le società diventano SPA, tutte le aziende diventano SPA, molte con inserimento di privati, 7 totalmente private, gli investimenti crollano a 700 milioni di euro l'anno. Ma se a decidere in quegli anni erano i politici, crollano perché sono i politici nel timore di perdere il controllo a non farli, o perché sono i privati che non li hanno fatti? Allora, io sto solo dicendo, prima non c'erano i privati, gli investimenti erano 2 miliardi all'anno. Quando sono entrati i privati, o comunque tutte le gestioni si sono trasformate in SPA, gli investimenti sono crollati a 700 milioni di euro l'anno. Sentiamo il vicepresidente di Federutility, Mauro D'Ascenzi. È colpa dei privati e della privatizzazione delle forme di gestione, quindi il fatto che siano tutte SPA, che si debba fare un sia pur minimo utile, anche perché bisogna poi remunerare non solo il capitale ma fare gli investimenti, il fatto che gli investimenti non si fanno nel nostro paese, abbiamo visto la percentuale, in poche regioni, quasi tutte a nord, l'80%, poi si scende fino al 6% della Sicilia. Dipende da questo, secondo lei, D'Ascenzi? guardi, dipende da un altro meccanismo. Lei mi permetta, guardi, senza alcuna piaggeria, di farle i complimenti. No, non mi faccia complimenti, perché mi rovina, mi rovina. Io non sono d'accordo su certe conclusioni a cui lei giunge, però è una delle poche volte che trovo una documentazione oggettiva, diciamo, dei dati di fatto, e questo me ne compiaccio, lo devo dire. Ma guardi, la questione degli investimenti è semplicissima. L'acqua precedentemente è stata fonte di spreco. In mezzo c'è stato Tangentopoli, lo vogliamo dire. La gran parte degli investimenti venivano fatti da Pantalone, perché Pantalone pagava e il cittadino non chiedeva conto, perché non pagava di tasca propria, con le tariffe. Questo è il malcostume che c'è stato sull'acqua. Naturalmente anche qui in mezzo vi sono stati comportamenti ampiamente virtuosi, anche nell'uso del denaro pubblico, ma moltissimi investimenti erano non portati dalle tariffe, ma dai fondi FIO, lei se li ricorderà, che servivano teoricamente. Vabbè, in mezzo c'è stata Tangentopoli. Ora, il problema degli investimenti attuali è legato alla tariffa. Vede, in molte realtà del paese si sono stati fatti moltissimi investimenti, in altri meno. Ma la tariffa, per reggere una tariffa bassa, bisogna creare un artificio nel piano d'ambito. Perché bisogna dire una cosa, le tariffe non sono stabilite dal da chi la gestisce, sia pubblico o privato, ma dagli ambiti, che in genere sono molto influenzati dalla propria popolazione e tendono tariffe bassissime. Per tenere tariffe bassissime ed investimenti alti, che cosa fanno? Artificiosamente prevedono un aumento della vendita dell'acqua, come se vendessimo mele e dovessimo convincere la popolazione a consumarne di più, così avremo gli introiti. Il risultato è che in realtà nei fatti l'acqua, per fortuna, in molti casi il consumo diminuisce, non viene premiato dal meccanismo tariffario italiano questo, e quindi naturalmente vi sono a disposizione meno risorse. Poi c'è il problema del sud, che è un problema drammatico, dove c'è talvolta una incapacità di investimento. Segnalo che un'azienda, tra l'altro totalmente pubblica, come l'Acquedotto Pugliese, tanto vituperato, ha aumentato enormemente la sua capacità di investimento ed ha diminuito le perdite, così come altri misti hanno invece realizzato altri tipi di risultati altrettanto eccellenti. Il Sud, guardate che laddove sono state fatte le società miste, sono messe in liquidazione. Il privato, che poi tanto privato non è, perché sono altre società nostre le uniche disponibili ad entrare lì dentro, esatto, se ne viene via, perché mi permette ancora una cosa, esatto, le prime gare in Italia erano partecipate da 6 concorrenti, le ultime da 1, non se ne fanno più perché non c'è nessun privato disponibile a non guadagnare nulla. Bisogna che si sappia che nell'acqua non si guadagna nulla. La fermo un secondo per dire, Stagnaro, possiamo riflettere su una cosa che non abbiamo ancora colpevolmente toccato, cioè la cosa che poi sulla quale torna la legge Ronchi, cioè questa cosa delle gare, perché dice da Scienzi, dopo l'inizio alla fine nessuno ci vuole partecipare, perché queste gare in cui tu non devi perderci, perché è importante o non importante, secondo lei come la pensi, che con la legge Ronchi si torni a tentare di dire, cari signori del concessionario, voi dovete mettere a gara i servizi invece che affidarli in house? È importante perché l'attuale sistema è caratterizzato da perdite assolutamente intollerabili, e questo dipende tra le altre cose dalle inefficienze che sono inevitabili in una gestione collusa del servizio idrico. Le gare servono a introdurre trasparenza e a far sì che almeno presumibilmente chi le vince sia in grado di produrre un servizio efficiente e in linea con quanto previsto dal contratto. Va precisato da questo punto di vista che è vero che ci sono state tante gestioni inefficienti, ma la colpa principale e il punto principale da enfatizzare da questo punto di vista è quello dell'assenza di controlli efficaci, cioè un problema di regolazione, e il problema di regolazione a sua volta deriva dal fatto, in larga misura, che la regolazione, sia tecnica sia economico-finanziaria, è affidata a organi che non sempre hanno le competenze necessarie e che sempre virtualmente agiscono secondo logiche politiche e seguono logiche politiche. Il caso di Aprilia è interessante perché ci saranno stati tutti gli aspetti che sono stati evidenziati e aspetti poco chiari come dire, sono evidenti, ma c'è stato anche a monte come dire, il tentativo di intervenire politicamente sulle tariffe in maniera da applicare forme di tariffazione redistributiva o progressiva e così via. Banalmente sono state immaginate ad aprile a 3 scaglioni di tariffa per le famiglie meno abbienti, per le famiglie ordinarie e per le secondo case, e nel momento in cui si fa questo con l'obiettivo più o meno condivisibile, non entro nel merito, di far pagare l'acqua a una tariffa più bassa a chi ha pochi soldi, e non ci si può poi stupire se chi è proprietario di seconda casa si trova una bolletta più cara. Se non si prende in considerazione questo aspetto non ci si capisce niente, così come non ci si capisce più niente se non si distingue tra il fatto, secondo me giusto, che gli investimenti necessari vengano caricati sulle spalle dei consumatori, i quali sono quelli che ne beneficiano, anziché fare, come avveniva in passato, l'ha detto D'Ascenzi, una politica della testa sotto la sabbia, in virtù della quale gli investimenti venivano effettuati ma attraverso contributi pubblici prelevati ai contribuenti, e quindi senza alcuna relazione tra il carico che ciascun contribuente, tra il carico fiscale che ciascun contribuente sopportava e la misura in cui ne beneficiava in quanto consumatore d'acqua. Sarebbe poi interessante andare a vedere, andare a confrontare l'efficienza con cui gli investimenti avvenivano all'epoca della manna dei contributi pubblici ricavati dall'erario e l'efficienza degli investimenti oggi, che sono sottoposti a una evidente disciplina finanziaria perché le aziende devono comunque chiudere il bilancio inutile. Bersani, torniamo invece a chi la pensa diversamente. Quali sono gli obiettivi del movimento, quelli concreti, rispetto a come funzionano e non funzionano le cose? Diciamo che noi da tempo lavoriamo su diversi filoni. Uno è quello degli enti locali, in cui noi chiediamo a tutti gli enti locali di modificare gli statuti inserendo che l'acqua è un servizio privo di rilevanza economica, per poter in buona sostanza, attraverso questo passo, che ovviamente è un passo politico e culturale, accedere a una gestione diretta e consorziata coi comuni limitrofi. In seconda battuta, noi ovviamente quando parliamo di pubblico non pensiamo al vecchio pubblico tout court, pensiamo a un pubblico che noi chiamiamo partecipativo, essendo l'acqua collocata territorialmente, a nostro avviso ci può essere una gestione davvero condivisa con le comunità locali e con il territorio. Insieme a questo noi abbiamo due grosse iniziative che qui volevo annunciare. Una è il 20 di marzo, noi faremo una manifestazione nazionale per la ripubblicizzazione dell'acqua e contro le ultime normative del governo Berlusconi, ma anche le normative di governi precedenti che ci hanno portato a questa situazione. E annuncio già che da aprile partirà una raccolta firme per 3 referendum abrogativi, cioè un referendum che chiederà l'abrogazione dell'articolo 23 bis, cioè dell'ultima normativa, un quesito che chiederà l'abrogazione dell'articolo 150 del decreto ambientale 150, cioè quello che in buona sostanza indica l'SPA come unica forma di gestione per i servizi idrici, e un terzo quesito che toglierà dalla normativa tariffaria l'adeguata remunerazione del capitale investito. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando dei problemi della gestione dell'acqua nel nostro paese. Siamo partiti da un libro, La casta dell'acqua, lo ripeto, Nuovi Mondi l'editore, come la privatizzazione sta assetando l'Italia, è l'exergo del libro, Giuseppe Marino, il suo autore, che è vice caporedattore del giornale. Sentiamo alcuni ascoltatori, poi un rapido giro di opinioni finali. Iniziamo con Roberto dalla provincia di Novara. Prego Roberto. Roberto c'è? Non c'è Roberto. Nicola da Verona, c'è Nicola? Sì, buongiorno dottor Oscar. Eccoci. Volevo citare 3 esempi che ci dovrebbero imporre una riflessione. Ci dovremmo far riflettere. L'85% degli acquedotti degli Stati Uniti d'America sono pubblici. E poi 2 esempi molto importanti sono la città di Parigi e di Grenoble. Come lei saprà, la privatizzazione dell'acqua in Francia è iniziata 150 anni fa. La città di Parigi recentemente ha deciso di ritornare a una gestione pubblica dell'acqua, con una forte delusione e preoccupazione della società privata che, non la cito, gestisce l'acqua in Francia. E la stessa città di Grenoble ha fatto questo cambiamento. Cos'è successo a Parigi? Una riduzione immediata delle tariffe in bolletta del 30%, con la gestione pubblica. Sì, sì, ma mi scappa da ridere perché è ovvio che i politici, scusate, ma i politici che cosa fanno per tenervi buoni più che abbassarvi le tariffe? Poi naturalmente si scassa tutto, si perde acqua per strada, non dico tutti, io non generalizzo, non sono un qualunquista. Bisogna vedere, a nord funziona in un modo, al sud in un altro, lo vediamo in ogni problema, ma il fatto della bassa tariffa, perché questo significa che l'acqua è pubblica e per tutti, è una presa per i fondelli. Comunque su questo ovviamente la si può pensare diversamente. Per me è una presa per i fondelli. L'acqua italiana costa molto meno che negli altri paesi, non rende remunerativa la gestione, ha reso inefficienti gli investimenti, perché i soldi o li prendi dalla fiscalità generale o altrimenti non li tiri su per mettere efficienza nei tubi, negli impianti e soprattutto nel ciclo finale dell'acqua, nella depurazione, visto che questa è la cosa che tutti ci dovrebbe preoccupare, però è la mia opinione e io sono in minoranza evidentemente su questo come su tante altre cose. Matteo da Torino, prego Matteo. Salve, appunto sulla depurazione che stava citando lei, il nostro problema di amministratori comunali è che abbiamo da anni dato in gestione la cosa alla SMAT, una ditta locale che si occupa di questa gestione, e su questa ditta il comune non ha più nessun controllo sostanzialmente, perché la ditta tende ad aumentare gli investimenti, a portare le fogne fino in punta alle colline, proprio perché così aumenta il numero degli allacciati, aumenta il numero delle bollette e non c'è nessun controllo dell'investimento che fa questa ditta, dei costi che ha per fare queste tubazioni da parte del comune. Questa ditta poi un domani, se il comune dovesse cambiare fornitore di servizi, accollerebbe tutti questi costi al comune, praticamente aumentando gli investimenti taglieggia il comune, cioè aumenta la cifra che il comune dovrebbe dare per slacciarsi, staccarsi e cambiare fornitore. Beh, Matteo di Torino da amministratore pubblico ci dà una testimonianza sulla quale riflettere approfonditamente. Giro per la sua opinione finale a Marco Bersani. Mi pare che il consigliere comunale di Torino ci dice qui c'è un problema di controllo, una volta che ci siano gli affidamenti poi attenzione che ci sono problemi anche di azzardo morale di chi una volta che si becca la titolarità della gestione e ovviamente tende per cautelarsi a mettere il soggetto pubblico nel cui territorio opera anche in condizioni di doverci pensare non una ma 10 volte prima di levargliela. Che si può fare su questa cosa dei controlli visto che il Covid non c'è più, non ha funzionato? L'authority, un'authority forte, è possibile pensarla? Ma no, perché l'authority contempla ovviamente una gestione mercatista dell'acqua. Il vero problema è riportare quantomeno nelle assemblee elettive, cioè nei consigli comunali, le decisioni fondamentali, perché oggi con le SPA le decisioni vengono prese in consigli di amministrazione che non sono eletti dai cittadini. Tornare invece a aziende speciali sortili comporta lo stesso una gestione diciamo di tipo industriale del servizio, ma con il grande vantaggio che tutte le decisioni fondamentali tornano nei consigli comunali, perché il profitto dei privati non è solo nella cosiddetta remunerazione del capitale investito, è che spesso i privati che partecipano a gare sono associazioni temporanee di impresa con all'interno dei costruttori, il che significa che poi tutti i lavori che servono vengono fatti direttamente dal soggetto costruttore con costi e efficacia assolutamente fuori dal controllo pubblico. Questo è il motivo per cui l'acqua non può essere gestita SPA. E nello stesso tempo la questione dei depuratori. Volevo correggere un'imprecisione che ho sentito all'inizio. Non è che per i depuratori servono investimenti. Per i depuratori i cittadini da sempre pagano un terzo della bolletta, sia che abbiano il depuratore sia che non ce l'abbiano. Allora io vorrei sapere, tutti quei soldi nei territori dove non c'è fognatura e depurazione, che corrispondono a quasi il 30% della popolazione italiana, tutti i soldi che in quegli anni i cittadini hanno pagato nella loro bolletta, perché un terzo della bolletta chiarissimo riguarda, chiarissimo, dove sono finiti? Esatto, aspetti un secondo, giro la stessa domanda ad Ascenzi, al vicepresidente di Federutility, su questa questione dei controlli, delle autorità, degli ATO che non sono in grado di esercitare il controllo e di un'autorità a livello nazionale che non c'è. Le aziende come la pensano? Non sarebbe preferibile per loro averceli? Certamente, gli ATO, parliamoci chiaro, non sono un'autorità al di sopra delle parti, certo. Sono una parte che affida un servizio ed è in contraddittorio con noi, è vero, talvolta in un meccanismo perverso. Io ti approvo gli atti, ma tu in cambio mi tieni tariffe insopportabili, cioè bassissime, perché sennò perdo le elezioni la prossima volta. Allora, per regolare questo meccanismo occorre un'autorità al di sopra delle parti, che non può dipendere neanche da un ministero. L'esempio dell'autority sull'energia è interessante, con i guai anche che ci ha procurato. Ma guai, ecco, il fatto che sono degli eroi, è l'unica autorità di settore, io dico sempre, viva Ortis, che ha retto a richieste di buttarlo via da parte di tutti, che significa che un po' il suo mestiere ha fatto, insomma. Molte volte ci castiga, quindi voglio dire, non è un alleato nostro, però quella è una modalità. Però mi permetta di dire una cosa, Gerini, guardi, lei ne ha accennato en passant. Noi in Italia siamo specializzati a parlare d'altro. Non esce un libro che si occupi di questo. Qual è lo scenario futuro del governo dell'acqua in Italia? Parlo di tutto il governo dell'acqua, perché noi stiamo parlando di una frazione, stiamo parlando del governo dell'acqua, perché cambierà. Cioè, cosa lasceremo alle nostre future generazioni? Dell'acqua, della materia. Tutti si mettono a dire questo decreto è la riforma, no, è la privatizzazione. Non è né la riforma e né la privatizzazione, è nulla, è una cosa piccolissima, regola solo le modalità di affidamento, pur importanti. Allora, mi lasci dire molto rapidamente, questo paese ha bisogno di governare l'acqua, di trattenerla, di distribuirla equamente, di recuperare quella sporca e di rimetterla in ciclo, esatto, di darla a tutti. Questo vuol dire un grande investimento, 5, 6, 7 ponti di Messina. Lo so, da scienze. Guardi, io devo dire poi a chi non la ascolta, che ignora che lei poi è, in realtà, adesso lo svelo, lei è vicepresidente del Federazione dei Diritti, ma insomma, ha una storia, una militanza di sinistra. Io credo che esista una sinistra capace di capire che questo si fa in forma societaria in SpA, senza che questo significhi espropri del fatto che l'acqua sia pubblica. L'acqua resta pubblica, poi come la si gestisce, secondo me è meglio gestirla in maniera efficiente. Questa è la mia conclusione, ma avrete capito che io, come sempre, sono in minoranza. Dobbiamo chiudere, quindi io saluto e ringrazio Giuseppe Marino, giornalista regionale, che è autore del libro La Cassa e l'Acqua, da cui siamo partiti, Mauro D'Ascenzi, vicepresidente di Federutility, Carlo Sagnare del Bruno Leoni, Marco Bersano del Forum Italiano Movimento per l'Acqua, e chiedo scusa a tutti voi perché abbiamo fatto poche telefonate di ascoltatori, grazie a Pippo Oreggi in regia e Alessandro Marco Tulli come sempre in redazione. Rina Giornale Radio, ci sentiamo domani.